destino a piacere con la testa, perché nato uomo è quel che gli resta. Non l'ho mai considerato un dramma, nel buio è la luce che ci manca. Ed è quando sei ragazzo che te ne accorgi, nelle navi senza sonni viaggiano i morti. Siedo su questo muro ad aspettare l'euforia che mi fa invecchiare. Quando sei solo e vivi nella tua pelle, il silenzio degli errori urla. Ho tessuto il tormento dei miei peccati, pochi gli ideali rispettati. Come si può giustificare? Farlo con me stesso è assai banale. Un monologo interiore può aiutare. Farlo con me stesso è assai banale. Lascio a questo muro il peso degli anni e pretendo che il mondo vesta i miei panni. Sarei pensato che il vittimismo vada studiato come il sussulto di una vita o qualcosa di innato. La certezza del risveglio non c'è mai stata, ma nemmeno che la vita fosse cosa sensata. Ogni tanto questo ci può stare, essere umani è qualcosa che vale.